Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. In sommario oggi le conseguenze del rallentamento dei flussi delle merci in transito ad alcune frontiere in seguito all'emergenza migranti, un focus sui furti dei mezzi pesanti, poi spazio ad una nuova campagna a favore della sicurezza stradale e quindi andremo in Veneto per parlare di formazione nella logistica. È notizia dei giorni scorsi, la Gran Bretagna ha annunciato la costruzione di un muro a Calais, quindi in territorio francese, a margine dell'autostrada A16. In realtà sarebbe la prosecuzione della barriera eretta nel giugno del 2015 attorno al porto per impedire l'assalto dei migranti ai tir diretti all'imbarco. Contemporaneamente l'Austria ha nuovamente agitato la minaccia di controlli capillari alle frontiere. Così si ripropone la possibilità che al valico del Brennero possa essere alzato un altro muro, quel muro che alla fine di aprile la polizia tirolese aveva presentato come misura necessaria per frenare l'ingresso dei migranti. La barriera non ha preso forma, ma nel frattempo ne sono state completate le fondamenta e quindi in poco tempo potrebbe essere eretta. Ad altre frontiere i controlli sono stati già rafforzati. Da una parte c'è un'emergenza umanitaria da gestire, dall'altra c'è un rallentamento pesante del flusso di merci con conseguenze sull'intera catena logistica. Nei giorni scorsi UETR, l'organizzazione internazionale che rappresenta le associazioni delle piccole e medie imprese di autotrasporto, ha scritto al presidente della Commissione europea Juncker per denunciare le criticità e i danni economici a carico delle aziende. Di UETR fa parte Confartigianato Trasporti, al nostro microfono il presidente Amedeo Genedani. Noi abbiamo scritto a Juncker per il semplicissimo motivo del fatto che la Commissione europea ha dato, diciamo, l'input, l'ordine, oserei dire, a 5 paesi europei di fare certi controlli, in particolare su via terra ma anche via mare. Quindi i 5 paesi sono l'Austria, la frontiera austro-ungherese, Austria-Slovenia, la Germania con l'Austria e oltretutto la Danimarca via mare verso Germania e via terra anche. E dobbiamo aggiungere anche la Norvegia, il porto della Norvegia verso la Danimarca, la Germania e la Svezia. Quindi in questo modo, con questi controlli dove arrivano i flussi migratori, ci sono dei rallentamenti importanti. Ma più in concreto, per l'autotrasporto, cosa significa un rallentamento dei tempi di passaggio alle frontiere? Significa una perdita importante, perché uno sta fermo alle frontiere per questi controlli mirati, che soprattutto vengono mirati sui veicoli pesanti, perché i migranti cercano di salire sui camion, come si vedeva anche a Calais, e automaticamente questi controlli ti fanno perdere dei tempi di guida e di riposo, che automaticamente uno rimane fermo. Soprattutto le merci non arrivano più quando devono arrivare, arrivano in ritardo, e spesso e volentieri ti può capitare anche che il committente dice: sei arrivati in ritardo, le merci non mi servono più, vedi di scaricare da un'altra parte. UETR ha anche avanzato una proposta per evitare il blocco dei tir. Una proposta in particolare che avevamo già anche chiesto in precedenza, che è in pratica di cercare di fare delle corsie mirate, dedicate, in pratica una corsia dedicata soltanto all'autotrasporto per guadagnare tempo e quindi fare i controlli in modo molto più serrato. Voltiamo pagina. Nello speciale di agosto abbiamo approfondito il tema degli assalti ai danni dei mezzi pesanti. Oggi ci occupiamo di un fenomeno criminale che va in scena in parallelo, cioè quello del furto dei veicoli stessi, camion, tir, rimorchi o semirimorchi. ASAPS, l'Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale, ha elaborato i dati del Ministero dell'Interno e reso una fotografia nitida di quanto accade. Nel 2015 sono stati rubati 2.275 veicoli pesanti. La regione più a rischio è la Sicilia, seguono Lombardia, Campania e Puglia. Per analizzare questo fenomeno ci siamo rivolti al professor Ugo Terraciano, docente di tecniche dell'investigazione all'Università di Bologna. Io direi che la tendenza, se la vediamo sul lungo periodo, è una tendenza, fra virgolette, fra molte virgolette però, positiva. Se noi prendiamo come parametro di riferimento un ventennio, i furti di mezzi pesanti sono diminuiti. Quindi la tendenza direi che è positiva se la vediamo nel lunghissimo periodo. È negativa se la vediamo nel breve periodo, perché i dati restano abbastanza costanti negli ultimi anni, cioè non ci sono dei decrementi significativi. Rispetto alle auto è piuttosto alta la percentuale dei veicoli pesanti ritrovati. Ecco perché. in Lombardia su 309 veicoli rubati, 251 sono stati ritrovati, cioè una percentuale dell'81%. Poi le percentuali viaggiano così, intorno al 50, 60, 70%. Direi che chi ruba l'automezzo non lo ruba per riciclarlo, ma lo ruba per depredarlo. Una volta depredato lo abbandona. Nel corso degli anni il calo dei furti dei mezzi pesanti è stato determinato dall'adozione di sistemi tecnologici sempre più sofisticati sul fronte della difesa e della prevenzione. Sugli automezzi vengono montati per esempio dei sensori di percorso, per cui se l'automezzo si sposta dal percorso, questo viene rilevato da una centrale operativa, dal suo percorso tipico. Ci sono delle telecamere a bordo che possono essere azionate nella cabina di guida quando c'è un'emergenza. E l'autotrasportatore non ha più facoltà di gestire il circuito di alimentazione del mezzo in caso di allarme, per cui se c'è un allarme la centrale è in grado di interrompere il flusso della nafta. Ma quali sono le merci più ambite dai ladri? Le più, diciamo, smerciabili, quindi quelle anche più colpite, sono i prodotti alimentari. Per esempio c'è stato un caso eclatante l'anno scorso di un furto di quintali di forme di parmigiano reggiano. Poi segue la tecnologia, gli elettrodomestici e i tabacchi. Rimaniamo sulle strade e torniamo a parlare di sicurezza. Nel 2015 il numero complessivo degli incidenti è calato, ma contemporaneamente è aumentato quello delle vittime. Un quadro statistico che ci allontana dall'obiettivo fissato dall'Unione Europea, cioè quello di dimezzare entro il 2020 il numero dei morti sulle strade, prendendo come riferimento il dato registrato nel 2010. Insomma, c'è ancora molto da fare sul fronte della prevenzione degli incidenti, che dipendono in buona parte da condotte di guida imprudenti. TISPOL, il network europeo delle polizie stradali, ha avviato una nuova campagna di sensibilizzazione. Si chiama Edward. A spiegarci di che cosa si tratta è Paolo Cestra, dirigente della polizia stradale, che dal 1 ottobre sarà il presidente di TISPOL. Edward è un acronimo, European Day Without a Road Death, che tradotto in italiano è il giorno europeo senza nessun morto sulla strada. Innanzitutto è un'iniziativa proposta dal network europeo delle polizie stradali TISPOL all'interno della settimana europea della mobilità sostenibile, che va dal 16 al 22 settembre, e si propone proprio nella giornata del 21 settembre 2016 di avere zero vittime sulle strade. Ovviamente l'iniziativa serve a consentire di aumentare la consapevolezza sociale del fenomeno della mortalità e dell'incidentalità gravi sulle strade europee, a richiamare l'attenzione degli utenti della strada sulla necessità di raggiungere gli obiettivi europei relativi alla riduzione del 50% del numero degli incidenti e delle vittime sulle strade entro il 2020 e soprattutto a dimostrare che dove sia presente un ampio sostegno da parte dell'intera collettività si può anche essere in grado di ridurre significativamente il numero di vittime e quello dei feriti gravi sulle nostre strade. La competitività di un sistema logistico passa necessariamente dalla qualità dei servizi, qualità che a sua volta dipende dalle professionalità degli operatori, dalla loro capacità di aggiornarsi in termini di conoscenze e di nuove opportunità. La formazione, insomma, è un valore aggiunto. Per incentivarla, con 300.000 euro la Regione Veneto ha finanziato un progetto formativo che prevede la partecipazione di vari partner, tra i quali Confindustria, FAI e Porto di Venezia. L'offerta è rivolta ad autotrasportatori, spedizionieri e agenti marittimi. Al nostro microfono l'assessore regionale Elena Donazzan. La logistica diventa un elemento strategico per migliorare la produttività, è una parte della produzione industriale, viene troppo spesso considerata un dettaglio e invece è fondamentale. Allora, questa iniziativa che abbiamo voluto con il Porto di Venezia è di grande rilevanza per il numero di aziende, ben 66, e per 885 lavoratori, ma non è qui solo l'intervento della regione. Sul piano della logistica abbiamo anche attivato i percorsi in obbligo formativo in alcuni istituti tecnici, attivando un percorso dedicato alla logistica. Infine è un flash da Odalengo Piccolo in provincia di Alessandria. Qui ieri si è svolta la prima festa del camionista dedicata ad un amico e collega di molti autotrasportatori delle province di Asti e Alessandria, Rosario Luongo. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati vari riconoscimenti ai rappresentanti della categoria. Questo numero di hashtag autotrasporti finisce qui, grazie per l'attenzione. Noi ci risentiamo lunedì. Da Andrea Ferro, buon pomeriggio.